il nostro programma inizia così, allegro e frizzante. Non ci sono più le mezze stagioni di Roberta Giordano. E in effetti non ci sono più, o forse ci sono, lo scopriremo anche attraverso questa puntata, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, una di quelle puntate speciali, monografiche, tutte intorno a un unico tema che ci riguarda davvero tutti da vicino, come sempre le puntate di Non ci sono più le mezze stagioni, ma in particolare questa. Questo taglio di luna, freddo come una lama qualunque, è grande come la nostra fortuna. La fortuna di vivere adesso, questo tempo sbandato, questa notte che corre, è il futuro che arriva. Chissà se è fiato effettivamente il futuro che arriva, ma intanto cominciamo a parlare del nostro presente, che ci dice anche quale sarà almeno il prossimo futuro. Parliamo di noi italiani, parliamo dell'Italia, soprattutto in base a questo ultimo rapporto del Censis. Sapete, intanto ci fa una bella fotografia a noi italiani per capire a che punto stiamo da vari punti di vista, per l'appunto. E questa è la ricerca realizzata dal Censis proprio nell'ambito delle celebrazioni dei 150 anni dell'Unità d'Italia, dell'anniversario insomma dell'Unità d'Italia, e pare da questo rapporto che i valori più importanti per gli italiani siano Dio, Italia e famiglia. Sembra di sentire qualcosa in realtà di molto tempo fa, quindi le cose cambiano o non cambiano? In realtà siamo sempre lineari, i valori che contano per noi, le priorità sono sempre quelle. Una volta si diceva Dio, patria e famiglia, adesso si dice Dio, Italia e famiglia. Ma allora adesso ne discuteremo con vari ospiti che tra poco vi presenterò, e questo insomma è l'argomento di questa puntata speciale di Non ci sono più le mezze stagioni, con, signore e signori, Giuseppe Roma, direttore generale del Censis. Come potrebbe mancare lui, naturalmente, parlando di questa ricerca. Buon benvenuto, Giuseppe. Buongiorno. Giuseppe, poi c'è Giancarlo Rovati. Benvenuto Giancarlo Rovati, che è direttore del Dipartimento di Sociologia dell'Università Cattolica di Milano e direttore per l'Italia del programma EVS, dal quale poi ci trarrà diversi dati e ci dirà anche di cosa si tratta. C'è Giancarlo Rovati? Sì? Benvenuto Giancarlo. Pronto? Giancarlo, vediamo se riusciamo a recuperarlo. Poi c'è Cristina Palumbo Crocco, saggista e ricercatrice sociale, che ha presentato un compendio dell'italianità qualche tempo fa al niente po' che al Quirinale. Cristina? No, in realtà è la buonasera. Innanzitutto si tratta della presentazione al libro effettuata e realizzata dal Presidente della Repubblica, ha fatto questo onore al volume. La presentazione c'è stata però nella Palazzo Wedeking, Piazza Colonna. Sì, quindi insomma... piccolo cambio di sede, ma sempre c'era lui, il rappresentante del Quirinale, insomma. E poi c'è Stefano Zecchi, caro Stefano. Eccomi qua. Ben ritrovato Stefano, che è, naturalmente lo conoscete, scrittore, professore di estetica all'Università Statale di Milano, che ha pubblicato il suo ultimo libro, è Dopo l'infinito cosa c'è papà, visto che parliamo anche di famiglia, di legami, di relazioni che vengono recuperate o in realtà gli italiani sono sempre aperti, diciamo, all'altro, pubblicato da Mondadori. Adesso cerchiamo di scoprirlo man mano con gli ospiti, partendo appunto da Giuseppe Roma. Giuseppe, quindi la cosa è sorprendente o in realtà siamo un paese statico anche nei valori, con questo Dio, Italia e famiglia? Poi vabbè, il senso della famiglia che c'è più o meno sempre, anche se cambiano secondo questo rapporto un po' i formati di famiglia, c'è il gusto per la qualità, per il bello, anche il recupero persino della spiritualità, l'apertura, dicevamo, rispetto all'altro, al bene comune. Facci un piccolo sunto, poi dopo andremo un po' nei dettagli, Giuseppe. Ma naturalmente tu hai dato una sintesi giornalistica di quella che invece è una ricerca un po' molto più articolata, anche proprio nel significato, perché naturalmente se andassimo così piano da ritornare a 60-70 anni fa, cioè ancora prima della Repubblica, saremmo proprio messi male. Invece in realtà le tre cose che gli italiani sentono di più e come tradizione, anche quindi come valori più o meno condivisi, sono al primo posto la famiglia. Attenzione, la famiglia non è la coppia con due bambini, perché appunto abbiamo rilevato come si sia molto trasformato il modo di stare insieme. La famiglia è un po', dobbiamo considerarla come dire un'unità, la più piccola comunità sociale che esista, fatta anche magari da una persona o da solo due persone, oppure sposata in chiesa o non in chiesa o non sposata, cioè la forma di solidarietà che per gli italiani è sempre molto importante. E d'altronde chi è che non vede che questa è una differenza che c'è in Italia rispetto a tante altre tradizioni e anche tante altre situazioni? E la famiglia, cioè questo primo nucleo di convivenza, è quello che resta un po' alla base di tante cose del nostro paese. Se c'è una risposta alla crisi più solidale, si deve anche al fatto che c'è una solidarietà fra i componenti di una famiglia, anche fra le generazioni, ma solo in ambito familiare. Se il welfare non copre tutto e le responsabilità ricadono sulle spalle della famiglia. È un ammortizzatore sociale per eccellenza, diciamo, l'ammortizzatore. Certo. No? E poi quando si dice l'Italia, che è il secondo valore che noi abbiamo rilevato, più che l'Italia, noi siamo una società e un paese che ama molto la qualità della vita e quindi valori molto immateriali, dalla convivialità alla bellezza, a godersi un paesaggio, insomma questa sensibilità tutta italiana verso la qualità della vita, che indubbiamente se la guardiamo meno con gli occhi quotidiani di tutto il brutto che viene fuori, degli ecomostri fino agli atti di violenza, per cui sembra fino alla corruzione politica, eccetera. Però se ci pensiamo, alla fine siamo un paese che attrae moltissimo gli stranieri per il nostro stile di vita, per la nostra capacità. E al terzo posto invece c'è lo spirito religioso, è una tradizione che su cui naturalmente si può discutere, ma che riguarda più di un terzo degli italiani nelle forme più diverse, ma d'altronde il sacro è qualcosa che da un punto di vista valoriale, quindi qui non stiamo parlando di religioni o di religioni semplicemente, ma un po' l'attenzione alla trascendenza, credo che sia qualcosa che oggi trascenda la dimensione puramente strutturata delle religioni, ma è un bisogno che proprio ci riporta alla globalizzazione, questa fortissima tendenza e primato del denaro, della finanza, insomma, per reazione forse ritorniamo anche a valori di questo genere, insomma, quindi un po' diverso, sì, ecco, certamente. Dalla slogan mussoliniano che poi i giornalisti hanno voluto... Quelli sono, ma in modo un po' diverso, un po' aggiornato, Giuseppe Roma. Ma Giancarlo Rovati, dicevamo che è direttore per l'Italia del programma EVS, dal quale è emerso il rapporto Uscire dalla crisi, i valori degli italiani alla prova. Coincidono un po' con questo ultimo rapporto del Censis? Diciamo che sono delle linee di tendenza che si confermano e si rafforzano vicendevolmente. Naturalmente il questionario è un po' diverso e... In questo caso l'indagine sui valori degli europei è partita nel 1981, nel 2009 c'è stata la quarta rilevazione, è possibile dunque fare un confronto sull'Italia ma anche su tutti i paesi che hanno partecipato per almeno un paio di decenni. Nell'ultima edizione, quella del 2008-2009, hanno partecipato 47 paesi europei e quindi questa indagine ha uno scopo soprattutto comparativo a livello transnazionale. Nel nostro caso, chiedendo che cosa è più importante nella propria vita, abbiamo trovato, ed è una costante da più di in questi 40 anni, al primo posto la famiglia, al secondo il lavoro. Ah, il lavoro in questo caso. Al terzo posto la religione, ma nel tempo c'è stata anche una prevalenza di amici e conoscenti, la politica è all'ultimo posto comunque, dopo gli amici e dopo il tempo libero. Però comunque la annoverano tra i valori, tra le cose più importanti, comunque la politica, sì, nonostante diciamo volessimo fare certo, dei confronti, disamore. In tutta Europa la politica è all'ultimo posto, l'Italia nel ranking dei 47 paesi è in media ed è al 20° posto, al primo posto sta la Svezia, dove gli svedesi danno alla politica per il 45% molto importanza, e all'ultimo ci stanno gli sloveni che danno alla politica un'importanza pari al 4%. Questo è molto interessante, poi ritorneremo anche sugli altri dati. Intanto Cristina Palumbo Crocco, con questo compendio dell'eccellenza italiana, prima Giuseppe Roma diceva quanto gli italiani abbiano riscoperto o comunque continuino a coltivare questa, al di là dello scappare all'estero e del malcontento, no? Il bello, la bellezza dell'Italia, la qualità della vita. Che cosa possiamo dire? 3-4 punti dell'eccellenza italiana. Allora, io ho iniziato proprio il mio volume proprio con evidenziare il patrimonio artistico e culturale italiano. Mi sembrava giusto, ed è ovvio che vivendo, avendo partecipato attivamente a crearlo nel corso dei secoli, è ovvio che un popolo a contatto con tanta bellezza sia diciamo intimamente contaminato. Questa è una realtà. E chiaramente a fronte diciamo di un patrimonio artistico che per esempio ha in dotazione 47 siti UNESCO e più di 5.000 musei ogni 100.000 abitanti, tuttavia ecco, si evidenzia questa criticità di non investire in modo sistematico, programmatico ed efficace anche a livello proprio economico nel settore culturale. E quindi questo va sicuramente migliorato, cosa che invece paesi come la Francia, la Germania, certo, non, anche in tempi di crisi, quelli attuali, non hanno realizzato questo tipo di politica, perché hanno considerato settori come la cultura, il turismo e la ricerca come settori anticiclici, quindi ottenendo degli indotti straordinari. E rientriamo in modo un po' pomposo e patriottico, e come si addice, insomma, una trasmissione dedicata all'italianità, a questo rapporto del Censis fatto in occasione delle celebrazioni dell'anniversario, del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Stiamo parlando appunto dei valori che resistono o che si rinnovano per quanto riguarda gli italiani, le loro priorità, le nostre priorità. Sempre Roberta Giordano con voi in questa puntata speciale, monografica di Non ci sono più le mezze stagioni, con Giuseppe Roma, che è direttore generale del Censis, con Giancarlo Rovati, direttore del Dipartimento di Sociologia dell'Università Cattolica di Milano, Cristina Palumbo Crocco, saggista, ricercatrice sociale, che ci parlava di questo libro Eccellenza Italiana, Stefano Zecchi, filosofo, professore di estetica all'Università Statale di Milano e scrittore, ha pubblicato come ultimo libro Dopo l'infinito, cosa c'è papà? Ritornando un po' sulla famiglia, sui valori più importanti, dice il rapporto Censis, Stefano, che siamo diventati anche meno individualisti, ti risulta, più aperti all'altro, più con voglia di partecipazione, di puntare al bene comune. Che dici? Se la domanda è per me, diciamo, sì, fuori da ogni scientificità, la risposta è proprio no, anzi. E poi comunque ci colgo una contraddizione, perché se la politica è messa all'ultimo posto, sì, significa che non c'è un valore di condivisione della realtà sociale. C'è una chiusura nella propria interiorità, intimità. La politica è sempre l'impegno nei confronti del sociale, nei confronti della scelta pubblica. Quindi se la politica viene messa all'ultimo posto, faccio fatica a capire come ci sia questa apertura alla collettività, insomma, questo così detto, io non mi permetto di mettere in discussione. No, no, ma qui siamo per confrontarci, per capire i vari punti di vista. Scientifico del Censis, del professor Rovati e queste altre ricerche. Dal punto di vista personale mi rendo conto che un altro aspetto invece è stato importante sottolinearlo, cioè il valore della famiglia, però anche in questo caso mi chiedo appunto, come diceva il dottor Roma, la famiglia certo cambia, ma siamo sicuri che la famiglia, cioè quella su cui noi costruiamo la nostra storia, in cui un padre e una madre cercano di educare i propri figli all'interno di una tradizione che poi naturalmente i figli metteranno in discussione, ecco, sia proprio la famiglia che è importante da sostenere, Mi pare piuttosto, per quello che torno a dire, che la mia esperienza, vedi, il libro che ho scritto è un libro che mi è stato in fondo chiesto per mettere un po' giù le mie esperienze di giovane padre molto anziano. Infatti il sottotitolo, diciamo, è così: fare il padre navigando a vista. Ecco. Cioè, non sono diventati forse un po' più presenti, invece più teneri questi padri? Sì, però un padre è un padre, nel senso che un padre deve avere l'autorevolezza, non l'autorità, o comunque non l'autoritarismo, che è il legame tra autorevolezza e potere. Che è quello di una volta soprattutto. Sì, tant'è vero, guarda, ti confesso che il sottotitolo del libro era la drammatica parabola dal padre padrone al padre coglione, però la casa editrice non l'ha voluto. Ecco, allora io mi chiedo come fa a esserci una famiglia capace di educare, di dare dei valori, discutibili finché si vuole, ma dei valori, se il padre è una figura così latitante. Allora mi pare che sia più un vorrei ma non posso, cioè capire che la famiglia è una istituzione decisiva, proprio decisiva, ma nello stesso tempo la fatica perché questa istituzione resti in piedi, proprio perché la modernità non riesce a sostenere la complessità classica della famiglia. Ecco, e quindi noi ce la stiamo reinventando, come si deve reinventare una figura del padre. E come in genere ci reinventiamo un po' la vita, anche se appunto alcune cose rimangono sempre dei punti di riferimento. Quindi Giuseppe Roma, questi dubbi che poneva Stefano Zecchi, no? Quindi l'individualismo non è molto convinto che sia in declino, che ci sia davvero l'apertura all'altro, la voglia di compartecipazione, se è vero, secondo il rapporto EVS che presentava Giancarlo Rovati, la politica è all'ultimo posto, e anche la famiglia gli sembrava che non fosse poi così, almeno forse diversa da quella tradizionale. Adesso si parla anche di famiglie con persone dello stesso sesso, quindi tutto è un po' in divenire. Che come puntualizzeresti questi due aspetti, Giuseppe? Ma guardi, da un certo punto di vista è un fenomeno abbastanza nuovo quello che noi abbiamo rilevato, cioè è un fenomeno che viene anche un po' con la crisi. E noi siamo stato un grande paese individualista, un paese del fai da te, e abbiamo negli anni migliori con questo soggettivismo, cioè il fatto che ognuno guardava molto più gli interessi personali che a quelli generali. Negli anni migliori, cioè gli anni 50 e 60, siamo riusciti a costruire qualcosa. Poi c'è stato un lento declino fino a arrivare l'apice degli anni 80, in particolare con gli IAPI, che sono gli ultimi 20 anni, fondamentalmente gli ultimi 20 anni, che hanno portato addirittura, noi qualche anno fa l'abbiamo definita la mucillagine, la crisi antropologica. La crisi oggi sta riproponendo un tema, cioè che tutta una serie di valori generali che possono essere come consumo, vivere nell'ambiente, star bene vuol dire avere più soldi, avere più benessere, però poi se non riesco a muovermi in città, se respiro male, insomma, ci sono delle cose che non sono alla mia portata. I problemi oggi sono sempre meno alla portata solo del singolo, perché divengono più complessi. Allora questo induce anche una riflessione, che onestamente non posso dire che siamo passati dal essere il paese creativo e individualista al paese del bene comune, però certamente un passaggio c'è e lo dobbiamo vedere. Sulla famiglia ci sono molti dubbi sulla sua capacità educativa, che non credo siano rimovibili facilmente, e che forse non dipendono solo da fattori obiettivi, ma anche dal come si è andato sviluppando un forte egoismo fra gli italiani, proprio nel momento in cui la soggettività è diventata una specie di etica individualistica, ognuno può fare quello che gli pare. Ecco, anche se Giuseppe, proprio a proposito di questo, vedevo sempre nel rapporto Censis, fra i vari punti che avete analizzato, anche questa voglia di legalità da una parte, no? Stufi di forme più estreme, sregolate, di individualismo, di trasgressione, questo bisogno di ordine, di regole, di civile convivenza, e poi anche il calo dei consumi, che uno potrebbe dire grazie, con la crisi non ci sono i soldi, invece diventa proprio una questione etica, una vera un po' di repulsione rispetto al consumismo. Comunque c'è una saturazione, no? Nel senso che c'è una saturazione nei consumi, in fin dei conti continuare a consumare per avere che cosa in più. Ci sono anche qui è una questione anche di valori. Noi abbiamo fagocitato telefonini, televisori, Kashmir, adesso però forse continuare su quella strada provoca anche una saturazione, a parte i problemi economici. Poi è anche vero che questa illegalità diffusa, la corruzione, l'evasione fiscale ha un po' fatto cambiare le cose, dico un fatto concreto. C'era una maggioranza di italiani che pensava che le tasse erano troppo alte e quindi la gente evadeva. Oggi si è rovesciato, la maggioranza di italiani pensa che poiché c'è l'evasione le tasse sono troppo alte. Che ma le pagano poi, questo è il problema, non so se c'è poi il passaggio, magari, quello importante. No, beh, insomma, qualcosa questo vuol dire, perché le pagano. Beh, in tanti le pagano. Perché no, certamente, se no come andiamo a vedere. Le tra paga. Cui per esempio, sì. E quindi tutto sommato ci sono, insomma, io vorrei dire questo, io non so se le nostre intuizioni sulla base anche dei dati di fatto, che però sono, come dire, di confine, non è che sono prorompenti, però forse bisognerebbe lavorare un po' più in positivo, perché insomma dirci tutto il male possibile, che siamo evasori, che siamo incapaci di educare, eccetera, eccetera, questo un po' lo sappiamo. Adesso dobbiamo capire, e io penso di sì, che ci sia, che se c'è uno spiraglio su quello lavorare. Bravo. Le famiglie. No, voglio dire solo una cosa sulle famiglie. È chiaro che le famiglie non sono l'unica agenzia formativa e si sono indebolite, perché non è che si è indebolito solo il padre, si è indebolita proprio la capacità della famiglia di essere un'unità che trasmette valori, ma anche perché se si sta più a scuola, che è più la scuola davanti al computer, davanti alla televisione, che insieme agli altri componenti della famiglia. Allora, forse questa rottura di una trasmissione patriarcale per linea di padre o di madre, a secondo poi delle tradizioni familiari, oggi meriterebbe una riflessione ulteriore. Ecco, la riflessione la facciamo tra pochissimo, Giuseppe Roma, perché il tema del lavoro, che secondo questo rapporto EVS, intanto ci dice per cosa sta questo acronimo? European Values Study, studio dei valori degli europei. Sì. I valori degli europei. I valori degli europei. Ecco, il lavoro per quanto riguarda l'Italia, sembra un tema proprio caldissimo, sì, cruciale. Certo, ma su questo, riallacciandomi alle considerazioni critiche fatte in precedenza sul lavoro e sulla mancanza di senso del collettivo. Io penso che il lavoro in realtà come valore abbia un valore pubblico, cioè può diventare davvero un collante della convivenza sociale, tant'è che per esempio, poi approfondendo che cosa si intende per valore, per lavoro e quali sono i valori impliciti nel lavoro, per esempio molti sono d'accordo, cioè il 70% è d'accordo sul fatto che chi non lavora diventa pigro, che il 60% che lavorare è un dovere verso la società, che il lavoro deve essere messo al primo posto anche sacrificando il tempo libero, questo è meno condiviso. Ma voglio dire, attorno al lavoro si crea una cultura e un'etica, e da questo punto di vista mi sembra che sia di fatto un importante collante, anche tra le categorie, tra le classi. Il gusto del lavorare bene e del fare un buon lavoro, non per la remunerazione, ma per la soddisfazione che dà il ben operare, è stato del resto un valore già messo in evidenza tante volte. Anche se Robati, ultimamente c'è una certa penuria di lavoro, e forse questo più che di coesione sociale può creare tensione sociale, no? E quindi si dà più importanza al lavoro proprio perché ce n'è meno, cioè è un valore che è stato rivalutato questo rapporto? Certo, diciamo che c'è è ritornata la dialettica tra voglia di consumare e voglia di lavorare. Al primo posto c'è la voglia di lavorare, e da qui l'importanza curiosa che danno al lavoro allo stesso modo i più giovani e i più vecchi. Gli danno la stessa importanza. I più vecchi forse perché temono che manchi alle più giovani generazioni, e i più giovani perché ne vedono in qualche modo la scarsità. Ma con riferimento all'individualismo, se posso riallacciarmi a quello, io trovo confortante il fatto che alla domanda ciascuno dovrebbe pensare agli affari propri senza mostrare troppo interesse a ciò che gli altri dicono o fanno, il 52% è contrario, è favorevole solo il 25%. E c'è un'area grigia, ma in qualche modo a questo se aggiungiamo che il 90% ritiene che se qualcuno ha un'informazione che può aiutare la giustizia la deve dare, mi sembra che indichino elementi di senso del bene comune. La politica non è più il collante principale, anche se la fiducia verso la democrazia come metodo di convivenza resta alto. Tra i valori che si ritiene debbano essere insegnati ai più giovani, al primo posto c'è il senso di responsabilità, al secondo posto le buone maniere, al terzo posto la tolleranza. Robati, sono valori nuovi, valori vecchi, riscoperti? No, cioè, l'indagine sui valori degli europei li rileva dall'81, sono sempre presenti, ci sono andamenti relativamente costanti nel tempo. Negli italiani, quello che ci interessa di più. Per quanto riguarda gli italiani, quello che naturalmente cambia è il senso di queste affermazioni, perché cambia il contesto. Allora, in un momento in cui si pensa, se si deve fare appello al senso di responsabilità comune per sortirne insieme, come si suol dire, è importante che sia considerato un valore. Il terzo collante, che era poi la dimensione religiosa, sia in termini di credenza personale che in termini di pratica collettiva, non mi sembra di secondo piano anche per il nostro paese. Cristina Palumbo Crocco, per quanto riguarda, parlava, no, a proposito del suo libro, del tuo libro Eccellenza Italiana, del patrimonio artistico culturale italiano che in tutto il mondo conoscono, anche se insomma non di rado se ne parla in modo critico in Italia, della poca importanza, dei pochi investimenti che ci sono, può essere questo un motivo, un collante di coesione comune, di volontà di bene comune e anche di legalità, il fatto di vivere in mezzo al bello? È vero, come qualche volta è stato detto, no, nelle periferie degradate viene anche più voglia quasi di delinquere, certo, di sporcare, di fare, mentre quando si vive in mezzo al bello è comunque un elemento educativo questo. Assolutamente. Se pensiamo che paesi che hanno in dotazione insomma beni archeologici, artistici molto quantitativamente e anche forse anche qualitativamente inferiori al nostro, beh, è chiaro, diciamo, che qui c'è un problema di, appunto, come dicevo prima, di strategia politica. E volevo però anche accennare un qualcosa che riguarda l'aspetto del lavoro, no? Sì. Che mi sembra molto importante. Ecco, facendo appunto questa ricerca ho messo in evidenza il fatto che l'80% dell'occupazione in Italia è dovuto, è fornito dalle piccole e medie imprese, di cui è costituito il nostro tessuto insomma economico. E questo lo collegherei anche all'esigenza di sempre più pressante di realizzare invece appunto una maggiore solidarietà tra queste piccole realtà. Perché nel mondo globalizzato in cui ci troviamo bene o male a dover così convivere, la coesione, la rete che adesso viene presa seriamente in considerazione proprio dalle associazioni delle imprese italiane, è l'unica soluzione per potersi proporre all'estero in modo sempre più efficace, anche se devo dire il nostro export, per export intendo veramente esportazione non soltanto di beni materiali, classici, materiali come può essere la meccanica, la gioielleria, la moda, il fashion, insomma, o i formaggi, sappiamo, il cibo, eccetera. Ma anche la farmaceutica, ma anche l'enogastronomia, che a questo punto facciamo rientrare proprio nel discorso culturale e quant'altro. Quindi questa voglia di fare rete, sia che avvenga in modo spontaneo, sia che avvenga per un'esigenza, diciamo del mondo economico globalizzante, penso che sia un destino, che una strada che si debba percorrere. E sempre riguardo alla coesione sociale, non dobbiamo dimenticare che l'Italia è sempre stato il paese che si è più caratterizzato per solidarietà, per volontariato, va detto questo. Il famoso terzo settore, si dice. Siamo veramente, pensiamo solo per le adozioni internazionali, siamo il primo paese in Europa e il secondo al mondo dopo gli Stati Uniti d'America. L'anno scorso, con tutta la crisi economica fortissima che ha colpito le famiglie italiane, comunque c'è stata almeno una donazione da parte della maggioranza delle famiglie italiane. E per quanto riguarda le missioni dei nostri soldati all'estero, è conclamato che i più generosi, i più altruisti, i più anche concreti nelle realizzazioni sono i nostri soldati. Quindi, insomma, ci tenevo a dirlo perché è una tradizione. A proposito nostra, di eccellenza italiana, giustamente. È una nostra eccellenza, sicuramente. Sì. Giustamente. Stefano Zecchi, hai sentito, ci sono anche vari aspetti positivi. E ritornando alla famiglia, dal rapporto Censis risulta che più del 90% degli italiani si dichiara soddisfatto delle proprie relazioni familiari, anche se ci si sposa di meno, ci sono più unioni, diciamo così, di fatto. E poi gli italiani sono contenti del proprio paese. Dicono il nostro paese, l'Italia, è il paese migliore. Sono meno stereofili di una volta. Il 56% dei cittadini, più 7% rispetto al 1998, è convinto che l'Italia sia il paese al mondo dove si vive complessivamente meglio. Tu la pensi così, Stefano? Che si sia contenti della propria famiglia, io sono contento anch'io, però mi risulta che stanno aumentando in modo esponenziale i divorzi. Sì, esponenziato. Evidentemente non si è contenti della propria famiglia, si cerca un'altra soluzione, a meno che un'altra soluzione non la si voglia più chiamare famiglia, ma non mi pare, non lo so, comunque ci si divide e la divisione è la rottura del sistema familiare, innanzitutto. Quindi vorrei capire come si può essere felici della propria famiglia e nello stesso tempo aumentino i divorzi. Una possibile contraddizione questa. Ma mi pare. Io credo sicuramente che si possa essere consapevoli della, per esempio, della grande tradizione artistica del nostro paese e capire quanto questa sia importante. Altra cosa mi pare il modo in cui è già stato ben detto, la si conserva, e quindi qui ci sono delle carenze evidenti, croniche evidenti. Ma poi, soprattutto, io non ho sentito parlare di scuola, non so la scuola in che posto sia nella graduatoria delle questioni importanti. La scuola dovrebbe essere la struttura di base da cui partire per comprendere quale sarà il proprio destino, quale sarà il proprio lavoro, la scelta della propria formazione. Insomma, famiglia e scuola, non vedo un'altra istituzione, agenzia di tipo educativo. Ecco, in questo contesto l'educazione estetica è sotto i tacchi delle scarpe. Si capisce che è importante la bellezza del nostro patrimonio artistico, si capisce che vivere in una periferia urbana degradata comporta violenza e aggressività, ma nello stesso tempo io vorrei capire perché nella scuola è così bassa l'educazione estetica, non c'è un'educazione musicale, l'educazione artistica, le arti visive, diciamo così, è una delle cenerentole della nostra istruzione. Allora, un'educazione estetica vive se c'è formazione, diciamo, a una bellezza vivente, cioè al sentimento del fare bellezza, non solo del conservare bellezza. Quindi non solo passivo ma anche attivo. Non solo conservare, cioè, perché lì evidentemente c'è una responsabilità pubblica e una sensibilità privata. Questa sensibilità privata certamente è figlia di una consapevolezza. Non so, chi è che dice che non si debba rispettare la bellezza del Colosseo? Però poi vai a vedere come viene trattato il Colosseo. Tant'è vero che viene ceduto per la sua manutenzione e conservazione. Io, Gigi, sono nato e vivo a Milano. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. E così probabilmente la pensano in tanti. Siamo sempre qui e non ci sono più le mezze stagioni. Roberta Giordano con voi, gli ospiti oggi in questa puntata speciale monografica che si confrontano su i valori fotografati più di recente che riguardano il popolo italiano. Abbiamo parlato di tanti aspetti, abbiamo parlato della famiglia che cambia, anche se il 90% degli italiani si dicono comunque soddisfatti delle relazioni familiari, del paese nostro che è considerato alla fine, anche se spesso qualcuno sogna di fuggire all'estero, lo fa veramente, che è il paese migliore dove si possa vivere, la ritrovata spiritualità, la fede che comunque continua a essere un valore abbastanza costante, che se quello naturalmente muta, diciamo, nelle sue forme, nel modo di sentirlo, questo piacere del bello che nonostante la trascuratezza di molta parte del nostro paese ancora sussiste. Giuseppe Roma diceva prima, Stefano Zecchi riscontrava questo intanto da una parte questa contraddizione tra il fatto che ci si separa sempre di più, ci si sposa sempre di meno, diceva, però più del 90% degli italiani, risulta dal vostro rapporto Censis, si dichiara soddisfatto delle relazioni familiari. Ma l'altra cosa che mi interessava un po' di più, visto che di famiglia abbiamo parlato abbastanza, della scuola, diceva Stefano Zecchi, si parla poco di scuola, che poi alla fine effettivamente è la formazione delle giovani generazioni, di quello che sarà, del destino, del futuro, del lavoro e anche direi della legalità e anche dell'educazione al bello, no? Diceva Zecchi. Che posto ha e che considerazione ha oggi? Ma la scuola, come tante altre cose che afferiscono alla gestione pubblica dei rapporti sociali e quindi a quel rifiuto forse più dei politici che della politica, la scuola oggi ha un ruolo indubbiamente da ricostruire, perché noi ne parliamo tanto, pensiamo che tutto dipenda dall'educazione, dalla scuola eccetera eccetera, però non è che facciamo molto anche come famiglie, per esempio, per orientare e dare ai giovani una giusta cultura della formazione, no? In generale noi pensiamo alla formazione sia quella del PhD, del master, dell'università, che poi tutti in realtà guardiamo ai giovani come dei frustrati perché non fanno il ricercatore ad Harvard, ma in realtà la funzione educativa è intanto una funzione di maturazione delle persone, di responsabilizzazione, poi è anche una vasta gamma di opzioni, quindi noi abbiamo alzato molto il tiro. Continuiamo a pensare alla scuola come una generale agenzia di formazione culturale, l'abbiamo talmente distaccata dalla vita reale, dalla anche professionalizzazione che deve venire attraverso il processo formativo, l'abbiamo così idealizzata che l'abbiamo uccisa. E anche questo discorso che si faceva, l'educazione al bello, non c'è, quindi la gente magari non capisce perché non viene educata. Infatti quello che emerge è che vivere, in generale la sensazione che hanno gli italiani è che vivere in un posto bello aiuta a diventare migliori, e questa è una cosa diffusa socialmente, perché questo divenga anche consapevolezza, capacità di comprendere il bello che va dall'arte alla musica, dai monumenti al paesaggio, lì quello che viene a mancare è la funzione pubblica, l'istituzione, non la possiamo adesso attribuire ai cittadini se la scuola ancora riduce i tempi di formazione per quanto riguarda dalle lingue alla storia dell'arte alla musica. Forse c'è talmente tanta roba da studiare. Alla società, no? Dobbiamo attribuire proprio alla politica, ai politici, alle istituzioni, che sono quelle che infatti vengono mal interpretate, vengono mal giudicate dagli italiani proprio perché hanno abdicato a questa forza. Insomma, io vedo, dobbiamo avere uno sguardo un po' più distaccato, mentre noi italiani finiamo per giudicare le cose sempre come se ci fosse un colpevole, se ci fosse qualcuno dietro. Insomma, gli italiani poi hanno tantissimi difetti, però penso che in questo momento abbiano proprio la voglia di scrollarsi un po' di dosso. Quindi invece viviamo molto spesso in luoghi comuni, ripetuti, slogan, che però cominciano a essere delle cose un po' vuote, perché poi che cosa vuol dire in che maniera le cose cambiano? Dal discorso ai giovani, no? Se ne parliamo tanto di giovani, ma praticamente in 15 anni non è cambiata una virgola la condizione giovanile. Giuseppe Roba, semmai dopo, visto che mancano pochissimi minuti, se poi pensi a, come si potrebbe lavorare in meglio, tu dicevi quindi in positivo, non solo in negativo, dopo se ci rimane ancora un minuto, da Giancarlo Rovati, sinteticamente volevo capire se ci sono degli altri aspetti, degli altri valori, oltre a tutti quelli che abbiamo toccato finora, che in questo rapporto comparativo tra paesi europei viene fuori relativamente all'Italia. Beh, è già stato accennato, ma vorrei ribadirlo, il tema della solidarietà, che in un senso concreto di condivisione del bisogno degli altri, che sta tra i valori che si ritiene importanti trasmettere alle future generazioni, ma sta anche nella pratica. È già stato citato la propensione a donare, quindi la gratuità, e anche il volontariato, le adozioni. Questo aspetto convive con elementi di chiusura, di egoismo, ma per guardare al positivo io penso che si debba far leva sul positivo che c'è in ciascuno, anche magari annegato dentro a molta opacità e a molta pigrizia, perché è solo facendo leva sul meglio o sul bello che c'è in ciascuno che ciascuno riprende il coraggio e il gusto di rimettersi in moto. Questo penso sia importante proprio come indicazione pedagogica, e lo si vede proprio nelle scuole, dove solo gli insegnanti che riescono maieuticamente a far leva su un punto di interesse dei loro studenti riescono poi a coinvolgerli anche in cose immediatamente percepite come meno interessanti e meno utili. E questa è l'arte dell'educare. Noi siamo bombardati da richiami al rispetto delle regole, cioè a una sorta di imperativo moralistico ad adeguarci a degli standard. Forse bisognerebbe fare più leva sul desiderio di miglioramento. Sentiamo in due parole Cristina Palumbo Crocco, proprio sinteticamente, come si potrebbe lavorare per il meglio in senso positivo e per l'eccellenza italiana, come si intitola il tuo libro? Assolutamente, guarda, io adesso volevo proprio intervenire e spendere una freccia in favore proprio della formazione, soprattutto dell'alta formazione, quindi quella universitaria italiana, perché garantisce una qualità della ricerca, no, da parte dei nostri ricercatori veramente eccellente. Molto brevemente, siamo quintultimi tra i paesi OCSE, quindi 25 per spesa in ricerca nel nostro paese, ma quinti nella classifica per citazioni nelle riviste scientifiche internazionali. Anche questa è una strana contraddizione, ma ecco, da prendere credo positivamente. Stefano Zecchi, ecco. Scusami Cristina, Stefano Zecchi, sì. Proprio in una parola, tu su cosa punteresti? Sostenere la famiglia, economicamente, soprattutto culturalmente, e sostenere la scuola, e non tanto preoccuparsi del tetto della casa, ma del fondamento. Sostenere la scuola significa sostenere gli asili e la scuola dell'infanzia, e incominciare lì, sostenere le maestre, i maestri, dare a loro sostegno economico e culturale, farli rispettare. Giuseppe Roma, proprio in chiusura, tu che sei direttore generale del CENSIS, hai curato questo rapporto, dici proprio mancano 23 secondi, cosa diciamo in questi 23 secondi di speranzoso, di positivo, su cosa lavoriamo? Rispetto, dignità e rapporto con gli altri, questo è quello che gli italiani penso devono essere aiutati a fare, più relazioni, più spirito di comunità, per cui il meglio che noi abbiamo, che è la solidarietà, il volontariato eccetera, possa trasformarsi anche in una veramente corrente elettrica che percorre tutta la società e cambia le tante cose che oggi in Italia non vanno. Grazie allora a Giuseppe Roma, a Stefano Zecchi, a Cristina Palumbo Crocco, a Giancarlo Rovati, gli spunti li abbiamo dati tantissimo, questi sono dei buoni valori alla fine che continuano a sussistere, che sopravvivono ancora nel nostro paese, si tratta di avere un pochino più di forza e un pochino più di coraggio. Grazie a tutti e da Roberta Giordano, Sereni Orizzonti, a tutti.